Vai, vai, parla. Vado? Sì. Allora, poi partiamo da quale motivo si arriva davanti alla gara nuova, velocemente, perché lo saprete già. Comunque, è da ormai 9 mesi che questi lavoratori, 51 lavoratori, sono stati buttati fuori dalla gara Nerolo e dell'altra cooperativa. Sono in pratica 9 rientrati dopo un accordo che prevedeva che entro ottobre dovevano entrare 23 e poi gli altri si sarebbero collocati successivamente. Il risultato finale ad oggi sono soltanto 9 dei lavoratori rientrati all'interno dell'azienda. Ieri lunedì abbiamo cominciato la presenza fissa per 24 ore, abbiamo messo un camper di fuori dalla Granarolo perché volevamo evidenziare il fatto che non oggi apriremo uno scontro a un livello un po' più alto. Cioè, lì andavamo prima precedentemente due volte, una all'Interporto, una lì davanti a Granarolo precedentemente. Invece da lunedì abbiamo cominciato a presidiare, diciamo, tutte le ore davanti a Granarolo. Allora, ieri c'è stata questa presenza più massiccia, che avevamo chiamato anche le altre cooperative a sostenere questo blocco davanti al Granarolo, ed era il mattino era riuscito perché aveva lasciato fuori una cinquantina di bilici da questo punto di vista. Loro non se l'aspettavano, anche perché c'era poi la morte di Abado, e quindi anche erano un po', almeno il prefetto e il questore, preoccupati rispetto a questa situazione. Nel pomeriggio si sono organizzati una settantina di poliziotti che sono arrivati e hanno cominciato in pratica a fare leggere pressioni, però con una forza che era più che uguale quasi alla presenza dei lavoratori. Non c'erano state dei 80-100 persone e loro sono arrivati almeno una sessantina di quei poliziotti. Alla fine, diciamo, non è che sia stata una cosa di carattere duro dal punto di vista dei mancanariamenti, eccetera, però ha disperso un po' i lavoratori, visto che poi ritornavano la gente che si metteva sotto i camion, eccetera, hanno cominciato ad usare dei gas urticanti e dando qualche manganellata, e poi d'altro lato hanno, diciamo, fatto anche degli arresti, 6 arresti, di cui 4 sono usciti e 2 li hanno tenuti dentro, ed erano 2 lavoratori, uno della Susa, che è un'azienda lì, con una cooperativa lì, l'azienda della Susa, dove lavora una cooperativa, l'altra azienda è la DHL, dove lavora un'altra cooperativa. Sono 2 lavoratori che sono stati arrestati e rimangono in carcere, sembra, fino a lunedì. Sembrava che volessero fare il perfettissimo processo domani, in realtà invece probabilmente hanno trovato una soluzione più immediata, perché mi hanno confermato oggi che ci sarà un incontro per mercoledì mattina per andare a cercare di trovare un minimo di soluzione. Mi chiederanno ancora di portare pazienza, perché poi magari riesco a trovare delle soluzioni più o meno contrattate. La realtà è tutt'altra, invece, perché se no non pagherebbero, come hanno fatto oggi, 3 pagine, uno del Corriere della Sera intera, uno della Repubblica, uno del Carlino, per dire che lì si gioca una partita che non è quella dal punto di vista sindacale, ma dal punto di vista politico, per mettere in evidenza che siamo lì politicamente presenti all'interno di Bologna. Cerca di criminalizzare un po' questo tipo di lotta per rendere evidente che è una questione di ordine pubblico, non è una questione di ordine sindacale. L'altro elemento che oggi in pratica abbiamo programmato lo stato di reazione in tutte le cooperative, noi siamo presenti più o meno un centinaio, supera il centinaio di cooperative che siamo presenti a Bologna, abbiamo scioperato in tutte 100, creando anche una pressione da parte delle altre situazioni, perché quando chiudiamo, blocchiamo l'attività di HL, blocchiamo l'attività della TNT, blocchiamo l'SDA, eccetera, crea oggettivamente dei disagi enormi, delle perdite economiche enormi, ed è chiaro che questo è un elemento di pressione. Non abbiamo i giornali, è un elemento di pressione obiettivo nei confronti del Granarolo, e poi abbiamo concentrato il picchetto davanti alla Granarolo per fare questo blocco anche oggi, però oggi sono arrivati ancora un po' più numerosi di ieri, che hanno, diciamo, per un momento aspettato, diciamo, ha lasciato un po' fare. Poi verso le 4 ho cominciato ad avanzare cercando di sgomberare un po' il picchietto che c'era. A questo punto c'è stato un allentamento poco alla volta della situazione, perché non volevamo poi arrivare ancora un altro scontro, almeno immediatamente, perché credo che ci vogliano ancora un po' di giorni per poter arrivare a dei risultati. Abbiamo fatto poi verso le 6 un'assemblea, diciamo, a conclusione di questa giornata, e abbiamo lanciato più o meno un'iniziativa che però dobbiamo questa organizzarla per sabato, non questo immediato, ma sabato un'altra settimana, di una manifestazione nazionale a Bologna. Okay. Su questa vicenda. L'unica cosa che ieri ha fatto un po' scattare questo meccanismo anche di attacco nei confronti dei lavoratori è stato il fatto che qualcuno dei nostri era andato a fotografare mentre avevano scaricato le truppe, diciamo, della polizia, dei loro furgoni, caricavano il latte, cioè la polizia portava via il latte per la Gran Roma, certo. Facevano servizio alla Gran Roma di portare via in giro il latte. Il fatto che noi siamo andati lì a fotografarli dal di fuori, eccetera, hanno scatenato una trentina di crumiri e di lavoratori che stavano lì facendo questa cosa. Carrarola ha organizzato una caccia all'uomo, diciamo, che stava facendo le fotografie all'interno, e dall'altro lato la polizia, per coprire anche questa cosa che era avvenuta, probabilmente ha detto adesso a questo punto, cioè, è una cosa abbastanza un po' incresciosa il fatto che ci peccate che stiamo caricando sui nostri furgoni illegalmente, perché fa tutto di illegale, questo latte, e cercando di dimostrare che li carichiamo, così gli diamo un po' di botte, arriva ancora dei coglioni e facciamo quello che dobbiamo fare. Un'azione un po' repressiva anche per capire un pochettino che reazione avevamo, eccetera. Credo che non ci sia, nella parte nostra, adesso proveranno anche loro, perché poi il fatto che utilizzino questa cosa di comprare 3 pagine di giornale è significativo dal fatto che hanno l'impressione che stiamo ponendo una grossa forza, se no non farebbero questo. Io credo che sia un elemento di debolezza loro, tutto sommato. Certamente le volte non ci fa piacere, però vuol dire che anche hanno i nervi un po' scoperti, e credo anche l'incontro di mercoledì del prefetto vada in questa direzione, se no non ci avrebbe neanche chiamato. Ok, ti ringrazio, perché poi dobbiamo farlo nel genere, quindi... Ciao.